11.07 di questo martedì 3 marzo continua la programmazione della mattinata di Radio Blackout. Un buongiorno a tutti e a tutte voi che siete in ascolto. Sta iniziando una nuova puntata di Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo. Ai microfoni questa mattina Francesca e Eddie, in questa mattinata di sole che ci rende carichissime. Vi ricordiamo i contatti 346-66-73-263 per scriverci e per il servizio Cisti Viaggiare Informati, e lo 011-2495-669 per chiamarci. Noi come sempre vi lasciamo un po' di musica e tra pochissimo andiamo a presentarvi la puntata di oggi. Buon ascolto. E 12 sui 105.250 le libere frequenze di Radio Blackout. Come ogni martedì mattina siete all'ascolto di Parole Ribelli. Allora andiamo a presentarvi brevemente gli argomenti che tratteremo nella puntata di quest'oggi. Saremo qui come sempre a tenervi compagnia fino alle 12.45. Inizieremo con un po' di notizie dal mondo. Nell'ultima settimana ci sono state diverse mobilitazioni studentesche in giro per l'Europa, in particolare in Spagna e in Olanda. Andremo un po' a raccontarvi cosa è successo, mentre andremo anche a dare aggiornamenti rispetto a un contesto diverso che è quello del Messico, dove da mesi proseguono le proteste in seguito al massacro di Iguala di fine settembre. Ci sono stati appunto nuovi cortei che hanno coinvolto anche altre componenti come quelle degli insegnanti, quindi andremo a dare qualche aggiornamento. E poi ci sposteremo un po' sul nazionale, andando a Napoli e a sentire i compagni e le compagne che hanno appena occupato uno studentato proprio ieri. E infine daremo un po' di notizie proprio sulla nostra città. E questo più o meno è quanto, noi vi lasciamo a un po' di musica, poi iniziamo subito ad addentrarci nella puntata di oggi. Buon ascolto con le note degli Atipici. Passiamo noi, lasciamo prove. È così che va. Abituati all'idea che siamo ancora qua. La fiamma non si spegne, sempre brucerà. E non ci sono cazzi per questi pazzi in libertà. Ini, mini, mai ni mo, e niente panico. Qui ti assevere da uno spettacolo. Animo, rallenta il battito. Mettiti comodo e scarta l'involucro di questo classico. È da sempre così, c'è una base di MC puntualmente invadenti. Se non li vuoi qui, saremo spine nel fianco, fastidio puro. Come le mutande quando ti entrano nel culo. Tollera e renditi all'evidenza che questa coppia non si spezza, non cade nella munnezza. Anzi, è una potenza di rime che impazza in piazza. Più ci mandi giù, più noi tiriamo su come la pazza. Ehi, yo, reality show, getta la spugna e svento, la bandiera bianca. Se no, ti magoneremo come un colossal di Kurosawa. Un incubo per le tue orecchie. Che come Chihuahua. Oh sì, ancora loro qui. Il tuo incubo peggiore è Rule Sli. Per farti dire oh no. Ancora un loro show. Si salvi chi può, non me ne libererò. Puoi girare il mondo quanto vuoi, ma ovunque te ne vai ricorda che troverai noi. Siamo in ogni posto, in ogni dove. Passiamo noi, lasciamo prove. Siamo bomber, la nostra firma è la parola. Siamo gangster, spariamo senza la pistola. The headbangers come Sermon e Smith. Serve la smash it, sforziamo subito il beat. Siamo mobili come le teste. Partiamo e siamo celeri come le fosse. Ci siamo sulle coste perché le nostre facce le sogno anche di notte. Ormai lo sai che fonte. Giri i canali, ma siamo onnipresenti come Paulini sui telegiornali. Lungimiranti, mine vaganti dei palchi italiani. Lucchini, mariachi, borbacchi, pizzi clonati vari, irriducibili come i laziali, mentre tu cambi scenari come suonerie dei cellulari. Di pop è il mio ordine del giorno, adesso sono sordo, e più mi rompi il cazzo più io morto. Puro, crudo, mulo, questo è lo zoccolo duro, e più tiro del culo più io godo. Perché ti sento dire cazzo ancora loro. Oh sì, ancora loro qui, il tuo incubo peggiore Rule Sli. Si salvi chi può, non me ne libererò. Puoi girare il mondo quanto vuoi, ma ovunque te ne vai ricorda che troverai noi. Siamo in ogni posto, in ogni dove. Passiamo noi, lasciamo prove. Oh sì, ancora loro qui. Il tuo incubo peggiore è Rule Sli. Per farti dire oh no. Ancora un loro show. Si salvi chi può, non me ne libererò. Puoi girare il mondo quanto vuoi, ma ovunque te ne vai ricorda che troverai noi. Siamo in ogni posto, in ogni dove. Passiamo noi, lasciamo prove. Trying to get me. Allora, 11:17, iniziamo ad andare un po' a vedere quello che è successo negli ultimi giorni in giro per il mondo. Come vi preannunciavamo poco fa, iniziamo dalla Spagna, dove la scorsa settimana, in particolare nelle giornate di mercoledì e giovedì, il sindacato studentesco nazionale aveva convocato uno sciopero di 48 ore. Che ha coinvolto appunto tutto il paese, che ha visto mobilitazioni sulle due giornate in diverse città contro la riforma dell'istruzione, la cosiddetta riforma Wert, dal nome del ministro che l'ha proposto, che fa parte insomma del governo di Rajoy, quindi del Partito Popolare, che insomma in questi anni di governo è stato contestato duramente per diversi aspetti delle sue politiche, tra cui appunto anche quelle in materia di formazione. Si tratta in realtà di una riforma che è al vaglio del governo già da tempo. Ci sono state anche negli anni scorsi già diverse mobilitazioni da parte degli studenti, ma la scorsa settimana quello che veniva contestato in particolare di questa riforma è l'introduzione del cosiddetto sistema del 3+2 all'università, che in realtà è un sistema che è già in vigore in moltissimi paesi europei come quello italiano già da diversi anni, ma che invece in Spagna ancora non era arrivato. Quindi sicuramente in questo si evidenzia una certa tendenza all'omogeneità, ad uniformare i modelli di formazione europea, che è un processo che insomma è già in atto da diversi anni, di cui abbiamo già parlato diverse volte. Insomma, a partire dal processo di Bologna in poi abbiamo visto sicuramente delle spinte abbastanza uniformatrici in questo senso del mondo della formazione. Quello che gli studenti contestano rispetto appunto a questa nuova introduzione, che per ora ancora non è stata approvata quanto ho capito, è che innanzitutto porterebbe al taglio di tutta una serie di corsi, di specializzazioni che a detta del governo verrebbero considerati insomma poco produttivi. Quindi anche qui si capisce bene insomma qual è la logica che sta dietro a questa riforma dell'istruzione, quindi una messa a profitto dei saperi, quindi quelli che non possono essere immediatamente spendibili per appunto il profitto economico, verrebbero tagliati, scomparirebbero. Dall'altro lato ci sarebbe inoltre un forte innalzamento delle tasse universitarie, in generale dei costi connessi all'istruzione pubblica, in un contesto in cui ci sono già stati dei tagli molto pesanti. Anche in questo insomma ritroviamo un po' molte similitudini con le mobilitazioni che ci sono state qua in Italia negli scorsi anni contro le varie riforme, ma insomma anche da altre parti. Quello che è interessante di questa riforma, insomma di quello che denunciano gli studenti, è che rispetto a questo innalzamento dei costi le proposte del governo sarebbero quella di dare vita a una serie di prestiti privati sul modello insomma di quanto accade già da molti anni in America, e abbiamo visto quanto questo modello insomma sia disastroso. Significa indebitare le persone fin insomma dalla giovanissima età, fin dai primi anni di istruzione. E peraltro proprio in questi giorni su diversi giornali statunitensi si tornava a parlare appunto di questa questione dei cosiddetti student loans, dei prestiti universitari, che a detta di molti insomma economisti, ma non solo, potrebbe essere la prossima bolla speculativa pronta ad esplodere, insomma a creare ulteriori disastri. Quindi sicuramente un metodo che ha già dimostrato negli anni in altri contesti quanto sia fallimentare, o perlomeno quanto sia dannoso per chi si ritrova poi a pagarne le conseguenze, non certo per chi su questo fa dei profitti, come è il caso appunto dei grandi gruppi bancari che proprio dal governo, rispetto a questa riforma verde spagnola, sono stati chiamati in causa per iniziare appunto a progettare una serie di prestiti a loro dire agevolati per gli studenti. Quindi questo è un po' l'impianto di questa riforma, che mercoledì e giovedì della scorsa settimana è stato contestato in tutta la Spagna. Insomma, alle proteste si sono uniti anche alcuni insegnanti. Le manifestazioni più grosse ovviamente sono state quelle nelle principali città spagnole, in particolare ci sono stati appunto blocchi stradali, occupazione di università. A Barcellona il corteo si è diretto appunto sotto la sede centrale della borsa, proprio insomma per i discorsi che facevo poco fa, che è stata insomma sanzionata con lanci di vernice e di altri oggetti, mentre successivamente il corteo ha poi occupato il rettorato dell'università. Quindi insomma sicuramente una situazione di fermento e speriamo anche in divenire, staremo a vedere nelle prossime settimane se ci saranno nuovi appuntamenti di mobilitazione. Appunto questo era stato convocato dal sindacato degli studenti, vedremo se ci saranno poi anche insomma avvenimenti più spontanei, non necessariamente a livello nazionale ma magari mobilitazioni più localizzate nei vari atenei. Questo più o meno è quanto per quanto riguarda la Spagna. Noi adesso facciamo un breve stacco musicale, poi ci spostiamo invece ad Amsterdam. Crazy with this thing. Don't you know I'm loco? E 26 sulle libere frequenze di Radio Blackout e andiamo avanti con un'altra puntata di Parole Ribelli. Come dicevamo a inizio puntata, sono varie le notizie dal mondo della formazione. Scusate il gioco di parole. Andiamo in Olanda dopo essere passati in Spagna. In Olanda appunto dove il 12 febbraio scorso alcune centinaia di studenti olandesi provenienti da varie facoltà, organizzazioni e movimenti politici hanno occupato un'intera ala dell'Università di Amsterdam. Un'occupazione nata appunto da varie componenti di coloro che abitano l'università, ma anche non solo, che diciamo cerca è una risposta a questa a una sorta riforma, sì, si potrà dire così, ha una appunto riforma universitaria che farà sì che sostanzialmente la maggior parte dei corsi di base verrà tagliata. Sostanzialmente quello che, riprendendo un po' anche il discorso che faceva Francesca prima sull'università spagnola, quello che è un po' il processo di Bologna, diciamo, che abbiamo visto attuare in Italia un po' di tempo fa, ecco, le varie componenti forse dell'università in giro per l'Europa stanno tentando appunto di uniformare anche il mondo della formazione. Abbiamo visto come la flessibilità sia di fatto, per rispetto al mondo del lavoro per esempio, una quella categoria che taglia tutte le diversità locali e che è l'unico e solo obiettivo da raggiungere a prescindere da tutto. Ecco, nell'università sta accadendo qualcosa di molto simile, e sono di fatto quelli della produttività, dell'efficienza e del profitto le direttrici della gestione. Quindi il 12 febbraio appunto centinaia di studenti e studentesse hanno occupato la facoltà umanistica dell'Università di Amsterdam, dando vita a quella che ha una realtà chiamata la nuova università, un esperimento di autogestione di spazi di formazione in cui sono stati organizzati dibattiti, conferenze, insomma si sono rimessi in circolo saperi e si sono condivise competenze. Dopo la risposta a questa, diciamo, all'interrogazione da parte degli studenti e studentesse al governo rispetto a quella che è appunto rispetto a quella che è la direzione presa, è stata quella di uno sgombero, appunto anche qui le risposte a quelle che sono le richieste dal basso, guarda caso sono tutte uniformate. Bene, questo sgombero violento che ha portato all'arresto di almeno 46 studenti che sono stati trattenuti tutta la notte, e nel tardo pomeriggio era di fatto prevista già una manifestazione di studenti medi che ha convogliato anche tutti gli universitari e tutti i solidali e solidali a quella che era l'occupazione della nuova università, e in centinaia e centinaia di persone sono andati nel rettorato, diciamo, e a fare un'assemblea, a scegliere come continuare questa lotta che nonostante appunto lo sgombero è tutt'altro che finita, dichiarano i membri della nuova università, e la decisione è stata quella di andare ad occupare un altro edificio dell'Università di Amsterdam, un edificio fortemente simbolico perché fulcro del 68 olandese e quindi caro anche alla memoria delle lotte studentesche. L'occupazione ha ricevuto centinaia di studenti che l'hanno subito resa, diciamo, in grado di offrire posti per condividere pasti, dibattiti, mostre, un po' di tutto, insomma. E ovviamente oltre a InfoAut, dove abbiamo tentato di seguire la notizia, si possono trovare in rete molte documenti dei ragazzi prodotti dagli studenti e studentesse stesse. Sicuramente importante è la loro piattaforma rivendicativa, loro dicono democratizzazione e decentralizzazione della governance universitaria, bisogna anche abolire l'attuale sistema di distribuzione delle risorse dentro l'università, cancellare il nuovo assetto che si chiama Profil 2016. creare un referendum che dia la possibilità agli studenti e alle studentesse di incidere su quello che è poi l'andamento universitario, perché ricordiamo che appunto una delle rivendicazioni più sostanziali è quella proprio del essere messi a margine di un qualcosa di cui si è protagonisti. Ovviamente poi importante anche sempre in questa piattaforma rivendicativa l'asse che si crea tra, assolutamente non inedito ma sempre da rinsaldare, tra studenti e lavoratori, che, in cui gli studenti chiedono assolutamente dei contratti sostenibili che siano dignitosi e che offrano effettivamente delle possibilità di carriera, dico, a tutto lo staff universitario. Scusate, oltre ad avere, sicuramente questo è un qualcosa di molto interessante anche per noi rispetto a discorsi che abbiamo fatto tante volte, un dibattito attraverso, diciamo, proprio sui luoghi dell'università e i loro costi. Ecco, sicuramente Torino è un appunto ci ha portato varie volte a evidenziare la relazione tra lo sfruttamento del suolo e la geografia urbana e la geografia, diciamo, dei luoghi universitari, perché come la città è un territorio, così lo è un'università, e abbiamo appunto visto come di fatto questo gli abitanti di serie A e gli abitanti di serie B quanto gli studenti di serie A e gli studenti di serie B, diciamo, sono due realtà che vanno a braccetto e che si sostengono l'un l'altra. Quindi sicuramente fanno bene gli compagni e le compagne olandesi ad attaccare questo punto e a evidenziarne un nesso sostanziale. Nel frattempo appunto l'occupazione continua, è molto determinata questa protesta ad andare avanti, e su change.org, ormai diciamo strumento abbastanza comune per quelle che sono le cause che cercano solidarietà a livello anche internazionale, su change.org i membri internazionali e l'Accademia si sono schierati a favore della protesta studentesca. Sono state raccolte la solidarietà di Harvey, Confino, Greber, Saskia Sassen, Noam Chomsky, Etienne Balibar, Jacques Rancière, Judith Butler, quindi diciamo tutta la comunità accademica internazionale si è esposta si è esposta a favore di questa occupazione. Gli unici che sembrano continuare a rimanere completamente sordi rispetto a quelle che sono le istanze di appunto tutte le parti che compongono il mondo universitario sono di fatto coloro che prendono effettivamente le decisioni. Allora sicuramente vediamo che anche qui l'analogia con la situazione nostrana, ma non solo, perché abbiamo visto anche appunto l'esempio spagnolo, ne vedremo altri anche più tragici come quello messicano che abbiamo trattato varie volte, che appunto, come dicevamo in apertura di puntata, ha degli sviluppi. Bene, allora la risposta appunto è sempre una, e vi è stata una criminalizzazione di questo movimento studentesco della nuova università, dipinto come una sorta di appunto di bivacco dentro ai luoghi del sapere. Bene, invece questo esperimento di autogestione, questo esperimento di autogoverno un po' dell'università invece sta andando avanti, e sembrerebbe che per ora non si possa fermare. Faccio il punto della situazione, segreteria, così si sfogano le altre persone. Sono fuori dal lavoro, dal caos, dal coro. chi ci resta, cavoli loro. Riesci a sentirmi, io sto bene con le mie passioni. Alzo il volume per captarti tra suoni e visioni. Vado fuori dai tuoi troni, versi tra cloni di giacca e pantaloni. Cattivi e buoni, mercoledì da leoni. Profumo di mare e limoni, gioco senza gettoni. La musica accompagna la mia testa. Destinazione vacanze, la svolta a destra. Il sole pulsa, noi aprono la finestra. L'ufficio è pieno tra di voi, chi mi detesta? Mi prendo certe libertà, chi rimarrà capirà che sono un'anima libera. Che cosa fai per questo fine settimana? Ci sta una meta lontana. E se domani spingessimo i pensieri un po' più in là? E se domani non fossimo più noi? E se domani vivessimo tra i segni e la realtà? Questo domani più liberi da noi. Con l'atmosfera e l'occasione giusta per baciarti questa sera. A chi non c'era lo diremo che è stato perfetto, sotto la luna e mille stelle per farci da tetto. Esprimi un desiderio che si avvererà, non ritornare alla realtà di questa città. Ti porto via da questo tram tram, ci salva, ti accalma, vivere meglio il mio karma. A mamma dimmi pure di stare tranquilla, e se mi sfugge una parola ti prego ridilla. Ascolta il mare insieme a me da dentro una conchiglia. Ci siamo persi nel deserto con niente per mia. Vivo di te, tu di me, di esperienze. Mi guardo dietro e le vedo le differenze. È stato breve questo fine settimana con una meta lontana. E se domani spingessimo i pensieri un po' più in là? E se domani non fossimo più noi? E se domani vivessimo tra i segni e la realtà? Questo domani più liberi da noi. Da quanto tempo siamo chiusi in questa gabbia? Noi con la testa nascosta sotto la sabbia. Non voglio stare così, io voglio più di così. Puoi fare più di così per stare fuori di qui. Da quanto tempo la luce non ci accompagna? Non sorridiamo dell'acqua quando ci bagna. Non voglio stare così, io voglio più di così. Puoi fare più di così. E se domani spingessimo i pensieri un po' più in là? E se domani non fossimo più noi? E se domani vivessimo tra i segni e la realtà? Questo domani più liberi da noi. E se domani spingessimo i pensieri un po' più in là? E se domani non fossimo più noi? E se domani vivessimo tra i segni e la realtà? Questo domani più liberi da noi. Che ci hanno esplicitamente richiesto. We don't wear those over here. This is hip hop. This is Carhartt jackets, Timberland boots unlaced. Yep. This is champion hoodies, chicken wings and French fries. R.I.P. pieces on the handball court. This is us still fighting police brutality. Everybody running their mouth about how they real. Ringtones blowing the doors off album sales. Need to be telling the people about how they feel. That's how it all started. I'm surprised they failed. Yeah, music just ain't what it used to. We used to have songs that you could shoplift or boost to. This is the truth too. Listen, we gon' pop in the juice truth and run up in the mall, get loose, boo. Hard streets, hard times, beats and hard rhymes. 5% is teaching the guard lines. Two turntables, a mixer, few speakers. Haze didn't exist yet, they blew reefer. Pink champagne, plenty of malt liquor. Extension cord was ran through grandma's kitchen. Fashion statements, back to safety. Now D-Block Royal, back to facing. Oh, man. Hip hop, hands up, if you forever a fan of hip hop. I wake up hip hop, go to sleep hip hop, dream about hip hop, cause I am hip hop. Oh man, this is hip hop, hands up, if you forever a fan of hip hop. I wake up hip hop, go to sleep hip hop, dream about hip hop, cause I am hip hop. I said hip hop, started out in the park. Man, I knew it was going down from the start. I be backstage with that extra pound in my heart. Butterflies, what a vibe when I tear that whole crowd apart. It's hip hop, my lips got problems, I spit hot. Watch the Kid Rock albums, I hurt verses and bruise flows. Who knows what's next and when? I'm like an NBA game, nothing less than 10. It's like all kind of diseases infest my pen. I'm sick, I gotta spit, I can't digest my phlegm. This gift could be a curse if you don't use it right. So call me now, tell half of these dudes to night. They let the lion out the cage and drag it from out the cage. Dudes worship them, girls be dragging them off the stage. You dudes weak, you ruined me, you'll hurt this rack. Get your producer my contacts, I'll murder that. Oh, man. This is hip-hop, hands up. If you forever up in a hip-hop, I wake up hip-hop, go to sleep hip-hop, dream about hip-hop, cause I am hip-hop. Oh, man. Just when y'all thought Queen Bridge was a rat, Nas came back bridging the gap. Joey Crack told the whole map to lean back. For a second you would have thought New York was taking the scene back. Even Jai dropped a mean track. It went on from New York, the first city to have heads to fiend for crack. Now I hear about us, who's a blood, who's a crip. Religious leaders only teach half of the truth. But I'd rather rock a fake gold crucifix than a platinum white Jesus faces. He rap like he's a racist, know a philosopher that reads the pages. But that knowledge I try to keep away from me for ages. Oh, man. It's like I'm in a race against time. Couple years ago, I couldn't wait to get signed. I thought automatically that my face would get shine. But being lyrical was just a waste of slick rhyme. So, still I annihilate though. Annihilate the place with the fireplace flow. The day I could with me or Joel or T, that's the day hell gone free. Oh, hip-hop, hands up, if you forever up in a hip-hop, I wake up hip-hop, go to sleep hip-hop, dream about hip-hop, cause I am hip-hop, oh man, this is hip-hop, hands up, if you forever up in a hip-hop, I wake up hip-hop, go to sleep hip-hop, dream about hip-hop, cause I am hip-hop, oh man. 11:43, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli. Prima di proseguire con la puntata andiamo a leggere un sms arrivato poco fa al 346-667-3263 che ci segnala che c'è un posto di blocco ad Alpignano in via Venaria direzione centro, quindi se vi trovate da quelle parti cisti. E adesso, come vi avevamo annunciato in apertura di puntata, proseguiamo con un po' di rassegna stampa dal mondo. Ci spostiamo dopo la Spagna e l'Olanda verso il Messico, un argomento di cui ci siamo insomma occupati con continuità sulle frequenze di Parole Ribelli in questi mesi, insomma a partire da quello che è noto ormai come il massacro di Iguala, questa durissima repressione nei confronti degli studenti avvenuta a fine settembre, in seguito alla quale 42 di loro risultano ancora scomparsi, solo di uno è stato ritrovato il corpo, che sembrerebbe effettivamente appunto corrispondere al insomma a uno degli studenti mancanti da mesi. Insomma, sicuramente i fatti appunto di Ayotzinapa e la mobilitazione che ne è seguita sono stati così un po' la miccia che ha acceso anche altri focolai di mobilitazione, o che insomma ne ha rinvigoriti altri in un contesto sicuramente variegato e molto difficile. Tra queste c'è appunto la mobilitazione degli insegnanti che da mesi reclamano il pagamento degli stipendi arretrati. Si tratta in particolare dei docenti che in questi mesi si sono mobilitati per gli studenti scomparsi di Ayotzinapa, reclamandone il ritorno in vita, con lo slogan che insomma ha caratterizzato le lotte di questi mesi: li abbiamo lasciati vivi, li rivogliamo vivi. Sarebbero insomma, secondo i dati che abbiamo trovato, almeno 94.000 dipendenti pubblici dello stato del Guerrero, che è appunto lo stato messicano dove è avvenuto questo massacro, che da mesi non ricevono gli stipendi. Si tratta appunto quindi un po' di una forma anche di ricatto da parte del governo nei confronti di chi in questi mesi ha insomma alzato la testa di fronte a questo episodio terribile. Martedì scorso appunto era stato, una settimana fa, era stato convocato uno sciopero da parte del CETEG, che è il coordinamento statale dei lavoratori della formazione del Guerrero, che avevano intenzione di andare ad occupare l'aeroporto di Acapulco. Lo stesso giorno era previsto anche un tavolo di trattative con il Ministero dell'Interno, che è stato però sospeso intorno alle 11 del mattino, in seguito al quale appunto i professori hanno deciso quindi di mobilitarsi di fronte alle porte chiuse in faccia da parte delle istituzioni. Non appena appunto sono scesi in strada e hanno preso la direzione dell'aeroporto di Acapulco, c'è stata una repressione durissima che insomma per molti versi ha ricordato gli episodi tragici di quella notte di fine settembre ad Iguala. Ci sono state appunto cariche violentissime con lancio di lacrimogeni, diversi insegnanti hanno inoltre denunciato da parte dei militari anche abusi sessuali sulle donne, ci sono stati più di 100 arresti, quindi insomma diversi degli insegnanti che si trovavano in piazza si sono ritrovati nelle mani dei militari in un momento in cui appunto la denuncia verso il sistema di connivenze di violenza tra governo, forze di polizia e narcotraffico è particolarmente forte. Queste insomma erano le prime notizie che giravano nelle ore successive. Sappiamo che appunto la distanza geografica comunque rende un po' complicato avere notizie di prima mano in diretta. Col passare delle ore purtroppo le notizie si sono aggravate. Prima si parlava appunto del fatto che un insegnante forse era morto in seguito agli scontri e purtroppo appunto dopo alcune ore è arrivata la conferma da parte di questo coordinamento degli insegnanti, e cioè che Claudio Castiglio Peña, un professore di 65 anni, era morto appunto in seguito agli scontri. Questo è appunto un po' quello che era uscito nelle ore immediatamente successive. Nel fine settimana sono uscite ulteriori notizie rispetto appunto a questa mobilitazione degli insegnanti di Acapulco e la notizia appunto che 12 di loro sono scomparsi ormai da una settimana, perché appunto il corteo si era tenuto nella serata di martedì scorso. La denuncia arriva da uno dei rappresentanti appunto di questo coordinamento statale dei lavoratori dell'istruzione del Guerrero, che dice che 12 maestri non si trovano più da nessuna parte, non sono a casa ma non sono nemmeno stati arrestati e insomma hanno annunciato una prima denuncia formale verso le autorità. Quindi insomma vediamo purtroppo un po' ripetersi quello che è stato il copione di Ayotzinapa, con repressioni violentissime, persone che scompaiono dopo essere finite nelle mani dei militari. E sempre appunto in relazione al massacro di Iguala, pochi giorni dopo questi avvenimenti di Acapulco con la lotta degli insegnanti ricorrevano i 5 mesi esatti appunto dalla scomparsa dei 43 studenti normalistas e in questa occasione, quindi per la giornata di giovedì, era stata convocata la nona giornata di azione globale per Ayotzinapa. Appunto nei mesi scorsi ce ne sono state diverse altre che hanno ovviamente sempre avuto come epicentro le città messicane, ma che hanno visto azioni di denuncia, azioni solidali anche in diverse altre parti del mondo. In quest'ultima occasione, quindi nella giornata di giovedì 26 febbraio, si sono mobilitate decine di città messicane, più di 20 città in tutto il mondo. In Messico migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione che era stata convocata nella capitale contro l'indifferenza e l'abbandono, marciando in direzione dell'Angelo dell'Indipendenza al Paseo della Riforma, che si trova a pochi metri dal palazzo presidenziale, che in questi mesi è stato più volte insomma assediato dai manifestanti, e l'intento ovviamente era quello di continuare a pretendere, a richiedere alle autorità che in questi mesi insomma hanno un po' nascosto la testa sotto la sabbia, verità e giustizia per quella che si configura come una delle pagine più buie della recente storia del Messico. La denuncia che hanno fatto i compagni dei normalistas alloggi ancora scomparsi, e che insomma la dichiarazione che hanno fatto è che fino a quando i media nasconderanno la partecipazione e la connivenza della Polizia Federale e dell'esercito in questo massacro, non ci fermeremo. Ovviamente il ricordo e la solidarietà è stata anche forte nei confronti dell'omicidio dell'insegnante ormai in pensione, che era morto pochi giorni prima durante gli scontri. E insomma la mobilitazione in realtà si è svolta in maniera abbastanza tranquilla, partecipata ma senza scontri. Gli scontri sono invece avvenuti a iniziativa poi conclusa quando un gruppo di studenti se ne stava tornando a casa dopo il corteo ed è stato

Bucka, bucka, bucka, bucka, bucka, bucka. You know the deal. This is me, though. Beats by Supremo for all of my people, Negroes and Latinos, and even the gringos. Yo, check it, one for Charlie Hustle, two for Steady Rock, three for the fourth coming live, future shot. It's five dimensions, six senses, seven firmaments of heaven to hell, 8 million stories to tell, nine planets faithfully keep in orbit with the probable tenth. The universe expands length, the body of my text possess extra strength, power lifted, powerless, up out of this towering inferno. My ink so hot it burned through the journal. I'm blacker than midnight on Broadway and Myrtle. Hip hop passed all your tall social hurdles like the nationwide projects, prison industry complex, working class poor, better keep your alarm set. Streets too loud to ever hear freedom ring. Say it back and went to sleep. It's dangerous to dream, but your chain cats get they chip. You dead now. Killing fields need blood to graze the cash cow. Some numbers game, but shit don't add up somehow. Like I got 16 to 32 bars to rock it, but only 15% of profits ever seen my pockets. Like 69 billion in the last 20 years spent on national defense, but folks still live in fear. Like nearly half of America's largest cities is one quarter black. That's why they gave Ricky Ross all the crap. 16 ounces to a pound, 20 more to a key. A 5 minute sitting here and then you no longer free. 40% of Americans own a cell phone, so they can hear everything that you say when you ain't home. I guess Michael Jackson was right. You are not alone. Rock your hard hat black as you in the terror zone. Full of hard niggas, large niggas, dice tumblers. Young teens of prison greens facing life numbers. Crack mothers, crack babies, and AIDS patients. Young blood can't spell, but they can rock you a PlayStation. New Mavis with a motherfucker's ass. You wanna know how to rhyme? You better learn how to add. It's mathematics. Mighty Most Def. It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science. What are we talking about here? Mighty Most Def. It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science. What are we talking about here? What are we talking about here? Yo, it's one universal law, but two sides to every story. Three stripes and you bitten for life. Mandatory. Four MCs murdered in the last 4 years. I ain't trying to be the fifth when the millennium is here. Yo, it's 6 million ways to die from the seven deadly grills. 8-year-olds getting found with 9 mils. It's simply in where your C's at. What's the deal? They on the hill pumping grills to keep their bellies filled. Lighting the ass with heavy steel. Sights on the pretty shit in life. Young soldiers trying to earn their next stripe. When the average minimum wage is 5.50. You best believe you gotta find a new grind to get cream. The white unemployment rate is nearly more than triple for black. Frontliners got their gun in your back. Bubble and crack, jewel theft and robbery to combat poverty and end up in the global jail economy. Different stipulations attached to each sentence. Budget cutbacks but increased police presence. And even if you get out of prison, still living, join the other 5 million under state supervision. This is business. No faces, just lines and statistics. From your phone, your zip code, the SSI digits. The system break, man. Channeling women in the figures. Two columns for who is and who ain't niggas. Numbers is hard and real and they never have feelings. But you push too hard, even numbers got limits. Why the one straw break the camel's back is the secret. The million other straws underneath it. It's all mathematics. Mighty Most Def. It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science. What are we talking about here? Mighty Most Def. It's simple mathematics. 12.05 sui 105.250 di Radio Blackout, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli. Dopo un breve quadro internazionale ci spostiamo a Napoli, dove ieri mattina è stato occupato da studenti precari e disoccupati un edificio abbandonato, l'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Via Embriani nel quartiere di Mater Dei. Quindi siamo in collegamento con Rosa del collettivo auto-organizzato universitario di Napoli, che intanto salutiamo e ringraziamo. Ciao Rosa. Ciao, ciao ragazzi. Allora, innanzitutto ti chiederei un po' di raccontarci appunto come nasce questa occupazione, come mai anche la scelta di insomma uno spazio che porta con sé tutta una serie di storie e di conseguenze anche importanti, quindi uno spazio che era luogo di oppressione che adesso è stato insomma restituito un po' ai bisogni degli studenti della città. Quindi intanto ti lascerei la parola su questo, poi magari ci racconti anche un po' come sta andando l'occupazione e qual è la situazione attuale. sì, no, vabbè, dici bene tu, diciamo, il punto poi probabilmente anche centrale della questione, quello che sottolineavi tu, cioè in realtà la specificità del luogo che abbiamo individuato, sia perché appunto per il fatto che è un ex ospedale psichiatrico giudiziario, e sia perché è un edificio chiuso da svariati anni e lasciato poi completamente abbandonato, ma per chiuso per qualsiasi tipo, diciamo, di partecipazione del quartiere, un quartiere estremamente popolare, un quartiere a cui potrebbe dare tanto, sia, diciamo, in termini appunto di socialità, ma in termini anche appunto di attività per chi lo vive, per gli studenti, per i lavoratori. E quindi la cosa nasce un po' da questo, diciamo, dal bisogno in qualche modo di ridare a questo spazio di fatto quasi un impedimento, no? per la gente che lo vede tutti i giorni in questo stato qua, invece ridargli un senso e in qualche modo ridargli anche una centralità dal punto di vista di una partecipazione diretta, no? di una ripresa di un posto che ha significato poi di fatto per decenni tutto il contrario di quello che ci vogliamo fare noi, perché in effetti è un carcere, un manicomio, quindi insomma all'interno, infatti i primi giorni, insomma da ieri, le varie persone, i ragazzi, gli studenti, anche le persone del quartiere che ci passano non hanno idea di quello che c'è dentro, rimangono effettivamente sconvolti. Quindi la cosa è un po' questa, anche perché Napoli poi da questo punto di vista è una città, diciamo, che ha estremamente bisogno, no? In qualche modo di spazi, di collettori, di momenti di un'aggregazione anche soprattutto diversa da tutto il resto che c'è intorno. Quindi insomma la cosa è un po' questa, nasceva un'esigenza concreta, anche perché noi poi da un punto di vista più strettamente, diciamo, universitario, abbiamo un problema rispetto proprio alla questione del diritto allo studio, nel senso che mancano all'appello una serie infinita, diciamo, di fondi regionali che dovrebbero essere stanziati, non vengono stanziati, per cui ci troviamo senza biblioteche, senza mense, ma soprattutto senza alloggi studenteschi, per cui, diciamo, veniva da un po' da queste spinte qua. La situazione purtroppo non è buonissima in questo momento, nel senso che stamattina, ieri già abbiamo avuto, diciamo, parecchie minacce chiaramente dalla Digos, e stamattina poi, diciamo, la polizia penitenziaria, che sarebbe la proprietaria, diciamo, dello stabile abbandonato, si è presentata, insomma, la minaccia è quella di uno sgombero imminente. Quindi in questo momento ci stiamo un po' raccogliendo in presidio davanti all'ex PG e stiamo un attimino appunto valutando questa questione qua, perché la minaccia di sgombero è effettiva, diciamo, è reale, e va capito, insomma, in quanto tempo, in quale modalità poi di fatto si andrà a verificare. Quindi la situazione è un po' questa. La risposta degli studenti, dei lavoratori, anche delle persone del posto è stata estremamente positiva, ma per tutta la questione che dicevo prima, perché effettivamente lasciare tenere un posto del genere che ha delle potenzialità immense, perché poi ci si potrebbe davvero fare di tutto e si potrebbe aprirlo ad attività sociali di qualsiasi tipo, e oggettivamente era considerato uno spreco ma immenso, a proposito di sprechi di cui si parla tanto, no? Questi poi sono i problemi effettivi e reali della gente, per cui la risposta è stata fortunatamente estremamente positiva, perché evidentemente si è andato, diciamo, a cogliere quello che era proprio un bisogno immediato, un bisogno assolutamente concreto delle persone che abitano qua o comunque nei dintorni, insomma. Quindi la situazione per il momento è questa qui. Va bene, Rosa, beh, sicuramente la solidarietà del quartiere è importante, soprattutto alla luce della minaccia di sgombero di cui parlavi poco fa, e noi, insomma, rispetto a questo da Torino non possiamo che darvi solidarietà. Sicuramente il processo di dismissione di diritto allo studio è un processo che abbiamo conosciuto magari con tempi diversi ma in maniera molto simile sui territori, in particolare qua a Torino, insomma, con tutta l'esperienza della Verdi 15, quindi insomma non possiamo che unirci a questa rivendicazione di spazi. Se ci fossero aggiornamenti, insomma, nei prossimi minuti rispetto alla situazione, noi, insomma, apriamo ben volentieri i microfoni della radio, altrimenti ci sarà sicuramente modo di riaggiornarci nelle settimane a venire. Quindi no, grazie mille, perché chiaramente poi in questi momenti, diciamo, quello che effettivamente conta è quanto si riesce a innescare un meccanismo di solidarietà, di partecipazione, di medesimazione in questa questa cosa qua, che poi è la cosa che proviamo a fare ogni giorno tutti quanti, tutti i compagni rispetto a tutto, diciamo. Quindi niente, vi ringrazio. Grazie. Spero che di non dovervi richiamare. Speriamo anche noi, vi facciamo in bocca al lupo per tutto e speriamo di sentirci presto, ma col proseguire delle attività. Va bene. Un saluto, ciao. È interessante a fine di questo collegamento evidenziare come di fatto a Torino ci sia anche una ridefinizione di spazi che sono stati di oppressione carcerari, le nuove però che viene solo aperto per sbigliettare per eventi più o meno fighetti di una Torino della cultura dei giovani e che poi ora andiamo anche a vedere quanto effettivamente esiste. E quindi per fortuna che a Napoli invece il riuso, appunto, di questi spazi viene dal basso e viene messo a servizio di quelle che sono le esigenze di tutti e tutte e non di qualcuno che vuole creare la vetrina di una Torino culturale che poi di fatto ha una povertà culturale nell'uniformarsi, nell'offrire sempre lo stesso festival fighetto in mille salse che non è attrattivo per nessuno oltre ad essere costoso. Sì, peraltro sulle nuove, se non sbaglio, era proposta di alcuni mesi fa, quando insomma imperversava la polemica su San Salvario, Murazzi, Movida e dintorni, proposta fatta da Maurizio Marrone, quindi insomma le premesse non nasceva sotto le migliori premesse, però era appunto quella di trasferire la Movida alle nuove nell'ottica anche della costruzione futura di residenze universitarie in quella zona, che comunque insomma ha una vicinanza con le facoltà di architettura e in un certo senso anche col Politecnico, quindi appunto la proposta era stata quella di trasferire la Movida là, che da un certo punto di vista è anche abbastanza significativo, insomma, trasferire la Movida in un vecchio carcere di quella che è l'offerta appunto un po' ingabbiata che viene fatta ai giovani di Torino. Ma di questo parleremo tra pochissimo, questo ci dà un ottimo assist per l'ultima parte della puntata. Nel frattempo vi lasciamo a un po' di musica. Questo è il castello del drago potente. Entra e vieni con me, ti renderò felice. Io so con lui, che quando passa la gente dice voglio arrivare su. Stare fuori dal tempo tu lo sai, stare in un confine borderline. A volte chiuso come il cielo in una stanza, compreso, sta crescendo la diavolanza. Se sei cudi l'estati, se sei martello batti, devi rizzuffati nella nuca, caramelli da uno conosciuto nella tua coccia fanno buca. Guarda le cose, adesso cerca la dose, pena freghi di gente, questioni di pose. Testa siante come una palletta, caspal 20 milligrammi, scusate vado di fretta. Suona rima, naturale triptamina, lucido nel mio sballo, calamiti, ascolta. Come fosse la prima volta, con le mani all'insù, perché non c'è menù, dimmi adesso chi fu, se mi sporchi il cielo dipinto di blu, sostanza naturale, zero merda artificiale, porto acqua nel giardino, fumo erbe, bevo vino, inquisitori, inquinatori di sostanze senza scrupoli per la gente, allungano la vita per farti ancora comprare, ne propongono uno stile per non farti più soffrire, eccitanti, narranti, nel mondo catodico, costa nostra, senza armonico, segnale storico. Legge attentamente l'avvertenza. Questo è il castello. Cappa al 20 milligrammi, osserva e pensa. Il drago potente. Fughe per la strada che ora salti. Entri vieni con me. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Concentrati, comprimiti. Introduzione arteriosa, pensieri senza limiti. Non ci fare caso, parole che sfuggono dal controllo labiale. Vengono fuori da dentro, per caso, non dal razionale. Come soldatini in fuga dalla guerra mondiale. Come cellule impazzite di una massa tumorale. La vita, chi te ne frega, chi la disprezza. Chi per sempre ogni minuto, ogni secondo non la spreca più. Questioni di ritmi, bioritmi, scanditi in controtempo. Comunicando con costellazioni abissali, microscopiche. Creazioni, prendo la mira. Per guardare i miei universi intercostali. Un dito, due dita, tre dita, poi una mano prendila o sfiorala. Oppure come un'assassina mocciocaci e amala. Entra e vieni con me, ti renderò felice. Leggi attentamente l'avvertenza. Questo è il castello. Cappa al 20 milligrammi, osserva e pensa. Il drago potente. Fughe per la strada che ora salti. Entra e vieni con me. Lo sai che i papaveri sono alti, e salutiamo chi ci ascolta in diretta da Berlino. Esco fuori quando il vento tira forte, quando sbatte contro la mia porta e spalanca le finestre aperte, soffia dentro le coperte, non sta dalla mia parte, è un circolo vizioso con le braccia aperte. Ho altre cose per la testa che non stai capendo, non ti do molto più di quanto ti stai aspettando. Sto camminando mentre sto lasciando tutto dietro, sto scendo per vedere meglio i tuoi occhi di vetro. Un altro metro arrivo, pochi secondi e scrivo le ultime due righe sulla merda che respiro in giro. Porto il vero con i members fuori dall'hi-fi, sopra il palco bomba forte, casse rotte live. Io resto a prova ad ogni tempo, ascolto i tuoi discorsi ma sono più le cose che non sento, stronzi. Non ci tengo a stare dentro i vostri cuori, porto solo un motivo per sentirmi quando esco fuori. Fuori ora, fuori non ci crede ancora. Fuori ora, per chi ha tenuto duro sin da allora. Fuori ora, per chi continua a mettersi alla prova, per chi questa è una droga, per chi non abbandona. Fuori ora, per chi ci crede ancora. Fuori ora, per chi ha tenuto duro sin da allora. Fuori ora, per chi continua a mettersi alla prova, per chi questa è una droga, per chi non abbandona. Come cani sciolti pronti ad azzannare, strappano guinzagli se le stringo perché c'hanno troppa fame. Rime che guardano la scena con occhi da cannibali, perché l'ora di cena è giusto che io le liberi. Fuori ora, circolo vizioso, terapia, la mia musica è la cura e la mia malattia. La mia voce va da sola nella cassa spia, si fa sentire, esplode sulle mine del mio DJ. Per le mie sorelline, per i miei fratellini, per chi vuole le mie rime, ho mille storie senza fine e fili, tesi sui burattini, apriamo le tendine sulle prime file, inizia lo show per bambini, scene da circo nel mio circolo vizioso, rimango in bilico su un filo teso e tremo dal nervoso, lancio testi a peso morto su una folla elastica, taglio corta le tue storie fatte in plastica. Fuori ora, fuori per chi ci crede ancora, fuori ora, per chi ha tenuto duro sin da allora, fuori ora, per chi continua a mettersi alla prova, per chi questa è una droga, per chi non abbandona. Fuori ora, per chi ci crede ancora, fuori ora, per chi ha tenuto duro sin da allora, fuori ora, per chi continua a mettersi alla prova, per chi questa è una droga, per chi non abbandona. Eh sì, una rima ancora, per lasciare un segno con motivazioni forti, andare fuori ora, è un circolo vizioso che mi insegna senza scuola, tue rime scritte nella tasca che tu senti ora, sfoto la testa che riempire di concetti testi, per non lasciarti troppo poco quello che vorresti, cosciente della condizione contro le illusioni, parole contro la finzione dentro questi suoni, ho solo la mia testa che non cerca sfide, ho solo una pistola caricata con le mie rime, lo senti come sparo quando a live suoniamo, pronto è fuori ora, è terapia che ti portiamo, mi bastano i miei alti a compensare i bassi, e se mi ascolti sono solo cazzi tuoi se non capisci, solo per chi ci crede scrive la sua storia, solo per chi ha un bisogno adesso è fuori ora. Fuori ora, per chi ci crede ancora, fuori ora, per chi ha tenuto duro sin da allora, fuori ora, per chi continua a mettersi alla prova, per chi questa è una droga, per chi non abbandona. Fuori ora, per chi ci crede ancora, fuori ora, per chi ha tenuto duro sin da allora, fuori ora, per chi continua a mettersi alla prova, per chi questa è una droga, per chi non abbandona. E 20 sui 105.250 le libere frequenze di Radio Blackout, e ancora per un po' finché non arriverà alle 12.45 puntuale come sempre il GR, Eddie e Francesca vi tengono compagnia come ogni martedì mattina con Parole Ribelli. Ebbene, dopo aver fatto un po' di rassegna stampa dal mondo con quello che è stata una settimana intensa per la formazione e aver dato un po' voce a quello che è stato, quello che è successo ieri a Napoli, l'occupazione di l'ex ospedale psichiatrico giudiziario, andiamo direttamente a Torino e parliamo un po' di cronaca locale. Tutti e tutte avrete sentito, letto in qualche forma, se non prima, comunque dopo l'accaduto sul giornale, di questo appunto fantomatico bottillon d'inverno di fine esami. Nulla di più, nulla di meno che non un appuntamento nato spontaneamente su Facebook, come molti del resto abbiamo visto che un anno fa addirittura tutta Torino veniva bloccata per 5 giorni da una chiamata su Facebook, quindi abbiamo imparato a non sottovalutare questo tipo di circolazione delle informazioni. Bene, quindi da questa chiamata su Facebook l'intento di festeggiare tra studenti la fine del semestre, la fine degli esami, prima di ricominciare le lezioni e prima di andare verso delle sudate aule studio in cui saremo tutta l'estate. Quindi più che legittimo in una città con 70.000 studenti volersi vedere e fare un brindisi tutti insieme per la fine degli esami. Insomma, giusto o sbagliato, comprensibile. Bene, però a quanto pare Torino, la città dei giovani, un giovane non l'ha mai visto neanche da lontano, soprattutto se si tratta di Fassino che ne parla e lo dimostra da giorni sui giornali. Quella che appunto è stata una partecipazione sorprendente da parte di tutti e tutte, che appunto ci consegna un dato sostanziale, ovvero che effettivamente questi giovani a Torino ci sono, ma non sono nei piani, diciamo, della Torino dei giovani che Fassino ha pensato, perché è di oggi la notizia su La Repubblica, fantastica in cronaca locale, che dice: denuncia in arrivo per il bottillon, i vigili ci sono reati. Finisce in procura la festa di 3.000 studenti in piazza Cavour, si ipotizzano la riunione non autorizzata e l'abbandono di rifiuti. Quest'articolo lo consigliamo vivamente se avete voglia di farvi 4 risate la mattina, soprattutto se siete under 25 a livello di età o ma anche di testa, se vi sentite, perché è fantastico. Dal momento in cui non solo appunto nella città dei giovani dice chiaramente che una adunata di giovani non è permessa e saggiamente La Repubblica mette dall'altra parte della pagina il processo ai gestori dei Murazzi e quindi appunto ci ribadisce in vari modi che un certo tipo di incontro in questa città non è permesso, perché ricordiamo che i muri non avevano soltanto una sfilza di locali da un lato, ma anche tutte, diciamo, erano anche la possibilità di incontrarsi o anche di appunto andare a ballare senza dover pagare chissà quale ingresso. Bene, da una parte appunto continua la crociata contro la movida che disturba poi di fatto la Torino Bene che abita sopra ai muri, e dall'altra la polemica rispetto a un altro lato della Torino Bene, perché di fatto poi Piazza Cavour non è che sia una zona dimenticata da Dio, anzi è la parte del centro che non è stata, diciamo, vetrinizzata a fini commerciali, ma che viene tutelata insieme appunto a quella parte un po' di Piazza Vittorio, viene tutelata a fini residenziali, quindi diciamo chi si può permettere di fare shopping in via Roma poi tendenzialmente si può permettere anche di abitare in Piazza Cavour, e allora perché non tutelare tutti i suoi spazi, quindi mandando via chiunque possa violare, per esempio dandosi appuntamento per festeggiare gli esami. È fantastica la seconda parte dell'articolo, anche perché ci ricorda ancora una volta quanto sia importante, quanto sia affidabile il sistema giudiziario a cui facciamo riferimento, ma soprattutto quanto sia un'indicazione valida il codice penale, perché ancora una volta appunto il reato di cui potrebbero essere accusati gli organizzatori del bottillon, che nello specifico non sappiamo chi siano, ma dalle informazioni che abbiamo ci sembrano dei pischelli come altri sostanzialmente. Fatto sta che appunto il tipo di reato che a loro verrebbe imputato risale a niente po' di meno che al nostro meraviglioso codice Rocco, e quindi il regio decreto del 1931 dichiara che le radunate sediziose non possono essere consumate, che sia con o senza vino. Comunque il 1931 ha parlato chiaro, e allora nel 2014 vedremo quanto ancora questo codice Rocco conta. Del resto abbiamo visto che tante tante cose di questo simpatico documento sono tornate in auge negli ultimi tempi. Ricordiamo che comunque più o meno tutto il sistema, tutto il codice penale italiano affonda le sue radici nel ventennio fascista, quindi non ci sorprende, diciamo, che la gestione poi di fatto di cose molto normali, come possono essere appunto dei giovani che si incontrano in una città con, ripetiamo, più di 70.000 studenti, e vengono poi gestite come ordine pubblico. Sì, poi... Scusate, avevamo tirato giù un microfono. No, poi la questione, insomma, che fa un po' ridere, che appunto tutta la polemica in realtà sia nata il giorno dopo, per il fatto che erano rimaste insomma prevedibilmente diverse bottiglie in giro, che insomma è una cosa che può piacere o non piacere. Indubbiamente la produzione di rifiuti può essere considerata un problema. Dopodiché, insomma, il giorno dopo era già stato tutto ripulito, è una cosa che accade più o meno in qualsiasi evento pubblico, e peraltro credo sia anche l'ordinarietà, insomma, in diversi altri quartieri dove si tiene la cosiddetta movida. Insomma, immagino che alla fine di qualsiasi serata a San Salvario o da qualche altra parte sia pieno di bottiglie in giro, che, ripeto, appunto, può essere sicuramente un problema. Dopodiché, sollevare un polverone del genere solo per questo è appunto abbastanza indicativo di quanto questi non abbiano, insomma, idea di quello di cui parlano, tanto più che appunto addirittura altri membri del Consiglio Comunale, di fronte alle dichiarazioni di Fassino, hanno cercato un po' di ridimensionare, di dire che appunto non era stato niente di così grave, che probabilmente loro stessi avessero avuto qualche anno in meno, si sarebbero trovati in quella piazza. Quindi insomma, poi gli organizzatori stessi, a loro dire, si sono ritrovati di fronte a una partecipazione probabilmente inaspettata, ma questo anche un po' sintomo appunto della mancanza di altri spazi di aggregazione. Poi questa pratica del botteglione, appunto, è una roba che nasce in Spagna semplicemente con l'idea di ritrovarsi assieme e di non pagare, appunto, che è comunque un dato non trascurabile. E a questo proposito un ascoltatore ci scrive al 346-667-3263 che Fassino al massimo potrebbe, anzi forse dovrebbe, parlare di Walking Dead. Probabilmente sarebbe e più comunque giovanile come questo. Esatto, sarebbe più appropriato. Ci augurano buona giornata e ricambiamo con piacere l'augurio. E niente, su questo abbiamo fatto le 12.29, quindi direi che possiamo lasciarvi a un ultimo pezzo e poi come sempre andiamo a ricordarvi un po' di appuntamenti della settimana, ma fate attenzione a non sporcare troppo in giro se partecipate. Bande armate, catto l'odio delle strade, vado a rigidificate contro quello che guardate, ho le granate più pesanti, caricate già le casse, le ho puntate sui rullanti, stiamo in tanti e non ci fermeremo qui, noi torneremo, e se il cielo è nero resteremo qui e combatteremo, andremo avanti fino a che qui non ne vedremo delle belle, ammazzati come condannati e blindati nelle celle, è una lotta dura e per natura, rimarremo qui, è la censura spazzatura dei giornali e dei PC, per chi si vende e spende gira sempre solamente in prima, per chi non torna niente, tira bottiglie di benzina, ci fa su, ma sta qua giù da tempo non ce la fa più. Se tu non credi alla TV e non ne puoi più delle sirene blu, per tutto quello che hanno detto non è vero, per chi vive a casa sua ma qui si sente uno straniero. Ti guardo dentro agli occhi tutto a posto e non è vero, riproveresti ancora ad ogni costo e non è vero, agiscono come voleva Cristo e non è vero, decidono che tutto ciò che esiste non è vero, realtà plasmata dentro un palinsesto e non è vero, in galera si sta bene, si esce bene e non è vero, insegnano a seguire ciò che è giusto e non è vero, non è giorno mi risveglio e spero non sia tutto vero, e intanto la TV dice che qua giù va tutto a posto, ma qui il capo è condannato, siedono allo stesso posto, è un mostro che sorride, manda giù le nostre vite, pippa coca, ciò che è in borsa e dà risorse infinite in più, dire che qui pago l'affitto di interesse, uno Stato che è fondato sul conflitto di interesse, sì, che una follia viene vendato chi guarda, il braccio armato in polizia che ci fa il cane da guardia, le puttane in Parlamento, scagionate da ogni causa, gente ancora senza casa ed io mi sveglio con la nausea, qui la chiesa è il papa dei bigotti più corrotti, bimbi chiusi in un convento ed io non credo più ai miei occhi, no, le morti bianche facce stanche sul lavoro, le veline calciatori in giro e ricoperti d'oro, sono l'Italia dei leader, le sfide mani pulite, le vite finite sotto acqua e toro e dinamite, ti guardo dentro agli occhi tutto a posto e non è vero, riproveresti ancora ad ogni costo e non è vero, agiscono come voleva Cristo e non è vero, decidono che tutto ciò che esiste non è vero, realtà plasmata dentro un palinsesto e non è vero, in galera si sta bene, si esce bene, non è vero, insegnano a seguire ciò che è giusto e non è vero, non è giorno mi sveglio e spero non sia tutto vero e non è vero, e non è vero, non è vero, e non è vero, ogni giorno mi sveglio e spero non sia tutto vero, ti guardo dentro agli occhi tutto a posto e non è vero, riproveresti ancora ad ogni costo e non è vero, agiscono come voleva Cristo e non è vero, decidono che tutto ciò che esiste non è vero, realtà plasmata dentro un palinsesto e non è vero, in galera si sta bene, si esce presto e non è vero, insegnano a seguire ciò che è giusto e non è vero, ogni giorno mi sveglio e spero non sia tutto vero. Dodici e 33, come dicevamo, a noi siamo in chiusura, Parole Ribelli vi sta per lasciare, ma non prima di avervi detto quali sono gli appuntamenti caldi di questa settimana. Allora, iniziamo dalla giornata di oggi. Questa sera confermato il consueto appuntamento all'asilo occupato di via Alessandria, dalle ore 20, cena benefit detenuti. E andiamo a mercoledì 4, Mezcal Squat presenta Autogestione del Corpo e della Salute, ore 19, aperitivo Bella Vita, ore 21, incontro sui fiori di Bach. E sempre per la giornata di mercoledì all'asilo occupato di via Alessandria 12, appuntamento con Love Story Cineforum alle ore 20, sembrerebbe, sì, direi che sono le 20, aperitivo benefit Lotta Nocie, mentre alle 21 proiezione di La paura mangia l'anima di Fassbinder. E su questo ricordiamo che c'è anche uno spottino per chi, insomma, trasmette e vuole passarlo. So I can flip those two, the baking soda, my verse, the coke, pro tools. All I need is all my weed, 448 grams, no stems of steel. From Washington Heights, hustling all of my life. Lawrence, Massachusetts, where the coke come back right. Now I got a new connect, so I can super stretch. Double back duplicates, getting super rich. And I'm silly gutter, I'll sell shit to your mother. E domani alle ore 21 presso il terzo piano, biblioteca autogestita, uno spazio di cui abbiamo spesso parlato a Palazzo Nuovo, ci sarà il Cineforum che manderà in onda un bellissimo film, Blow Up, sulla fotografia, nello specifico di Michelangelo Antonioni. We on the curb watching out for them bike boys. I'm the right choice if you wanna cop shit. And if I'm on tour, I'll send you the poppy piff. Who am I? Terminology. Boston. Arriviamo alla giornata di giovedì 5 marzo, dalle 20 alle 21.30, allenamento del corso di autodifesa del Paso, questo mensile benefit per le tue lotte preferite, appuntamento in via Passobole 47. Growing up, all I needed was a microphone, so I could travel, experience different time zones. See the world, I'm out of here, baby girl. What's the nuts to making them urine? I see my toes curl. Give a nigga stage crowd, that's medicine. E sempre su giovedì rimaniamo, ma in un'altra zona della città. Finita la sessione esami, finite le intere giornate chiuse in casa, aula studio, camera davanti ai libri, finite le serate, non esco che domani mi alzo presto, cominciano appunto non solo Bottione in piazza Cavour, ma anche The Night of the Invaded Campus, una serata musicale a partire dalle 19.30, organizzata da il collettivo Campus Invaders nella C1 occupata del campus Luigi Einaudi. Arriviamo al fine settimana per la serata di venerdì a Ivrea, al centro sociale Castellazzo, dalle ore 21, Black Days, Blues from La Spezia, mentre da queste parti al centro sociale Ascatasuna, serata techno con Polpo Schulz e la meglio musica elettronica in circolazione, cito testualmente, serata We Call It Techno. Niggas are light up, you don't know what I need is you snitching, nigga running to the police, that's why half of my niggas are parolees, don't sweat it homies when we see them, we gon' hit them up, I ain't kidding nigga, Ellen nigga lit them up, so what you need, yeah I got it, now the block's mine, the king, all I need is a queen, a nice dime, yeah nigga. Handcuffing like you run time. I'm trying to fuck, I don't need to know what's on their mind. I don't need the headache to get it. You get it, all I need is the dope. Anything else, I ain't with it. Who am I? Rapinoid. E arriviamo a sabato 7, sabato 7 e domenica 8, perché tutto il weekend ha il paso occupato Unconventional Tattoo Circus, la consueta, diciamo, il consueto appuntamento di due giorni di tattoos, piercing, scarificazioni, shiatsu, chai e cucina curda dalle 13 fino allo sfinimento, ricordiamo sia sabato 7 che domenica 8, mentre sabato sera al centro sociale occupato autogestito Gabrio, concerto live by Talco, Comba Scat, Pacianca da Marghera e Rancore, punk militante da Torino. Inizio live, ore mezzanotte, via Miglio 42. È sempre sabato 7 marzo, giornata ricca di appuntamenti. Per quanto riguarda invece il pomeriggio, ricordiamo il corteo che partirà alle 15.30 da Piazza Sabotino in zona San Paolo, in riferimento al mercato di Via di Nanni. Ci sarà il corteo contro la violenza maschile sulle donne, che è stato promosso dall'assemblea antisessista che si è riunita in queste settimane per dare risposta a un episodio di stupro avvenuto proprio nel quartiere San Paolo, a danni di una donna che aveva condiviso alcuni bicchieri con un frequentatore da bar. Quindi appuntamento, insomma, anche con l'avvicinamento dell'8 marzo per ribadire che il sesso è tale se consensuale, che se il consenso non è chiaro trattasi di stupro e tale va definito. Quindi insomma, l'invito sicuramente a partecipare, e dopo vi faremo sentire anche lo spottino che è stato realizzato per la manifestazione. Sempre sabato invece per quanto riguarda di nuovo il centro sociale Castellazzo di Ivrea, dalle 14 scambio di semi, proiezione, distribuzioni no expo, mentre per quanto riguarda Torino dalle ore 11 della mattina nella piazzetta del Balloon, polentata e vin brûlé, benefit spese legali per Silvia, Costa e Billy, con mostra sulle nanotecnologie, banchetto informativo, distro e musica. Con fascino e trutto, un altro punto, quello che sentivo è giunto, di rabbia e rancore, vita sofferta dove è certa, la morte e il dolore, stato d'allerta, dal centro fino a giù in periferia, in questo tempo c'è dittatura, non democrazia, questa tirannia ci arresta per stupefacenti in via, poi ne comprano di più potenti in ogni farmacia, è follia sin strada in ogni parte del pianeta, qui non c'è moneta, e la mia cerca si è stufata di sta dieta, sta nazione ci viene e ci cresce con la catena, poi ci butta in prigione senza sconto della pena, ti descrivo dove vivo, non esistono diritti. diritti. Siamo sempre in guerra, in terra di conflitti. Vittime di disinformazione di chi occupo. La situazione critica si salva chi si punta. Descrivo dove vivo, non esistono diritti. Siamo sempre in guerra, in terra di conflitti. Vittime di disinformazione di chi occupo. La situazione critica si salva chi si punta. Questo stato è corrotto e putrefatto nell'interno. Affaristi, pituisti e terroristi nel governo. Guarda Napoli e Palermo, dare cassonetti in fiamme. Per gli appalti contraffatti e contratti con le banche. Nelle fasi del terreno poi il veleno si dispande. Mamme contaminate hanno figli senza gambe. La sanità è di pochi come negli Stati Uniti. Tasse alte, ammazze basse per le tasche dei partiti. Benvenuto nello schifo dove vive questa Italia. Il ladro è chi governa, l'innocente è chiuso in gabbia. Il povero non mangia ma si arrangia negli stendi. Il ricco è chi ci sfrutta e ruba sui nostri stipendi. Non credo nella chiesa che nasconde i suoi peccati. Lo pensavo all'uguaglianza con le spade dei crociati. Dopo c'è un ideale che si incarna nel mio nome. Alza il pugno e grida forte, viva la rivoluzione. Ti descrivo dove vivo, non esistono diritti. Siamo sempre in guerra. E ci hanno chiamato al 346-6673-263 per ricordarci che sabato 7 c'è un ulteriore appuntamento, se non ce ne fossero abbastanza. Questa Torino è così piena di cose da fare, eh? Concerto punk hardcore all'asilo occupato in via Alessandria, i Determination dall'Austria, i Cold Cops da Bologna, Pioggia Nera da Milano e Flick dalla Tet da Torino. Benefit Prigionieri. Vogliono piegarmi, levarmi i migliori anni ed ingabbiarmi. Trovarmi con sbagliati chilogrammi, hanno paura di affrontarmi. Perché uso le rime come armi, non riesco a tormentarmi. Resto sveglio fino a tardi, non riesco a contentarmi. Ho aspirazioni troppo grandi, non ho niente nei vostri riguardi. Siete bravi ad inventarvi nomi e fatti, ma vi fotono gli sguardi. Provano a incastrarmi in tutti i modi, parlo schietto, è giusto che mi odi. Un po' ciubagarli e colpo vuoti. Non dopo che sei ucciso, cucchi e strandi. Tu parli, parli, ma i consensi qui non puoi comprarli. Voglio impavagliarmi, gettarmi il pasto agli sciacalli, ma soldarmi versi senza tagli per calmarli. Ho paura di svegliarmi un giorno, abituarmi a quello che ho intorno, poi chiudo gli occhi e sogno. Mi sento come Yoda nel finale contro Yuta, un lupo solitario che si morde e non si annuncia. Mi sento come Brandoli che muore nel suo film. Mi sento come Marshall solo senza Bruce e Kim. Il reverendo King urlando a Eva Dream. Un rapper di Long Island ispirato da Rakim. Mi sento come Gandhi, un guerriero senza armi. Mi sento come il sole ma nessuno può eclissarmi. Mi sento come Che Guevara a fianco di Fidel. Le metriche di palle sopra il beat di guerre. Mi sento come Pac, figlio di una madre sola. Blasfemo maledetto e solo il rap mi consola. Mi sento come Bob che malato prega già. Rolla l'ultimo cannone poi raggiunge l'aldilà. Mi sento un viaggiatore che compila il suo diario. Me stesso sono un nuovo rapper rivoluzionario. Mi sento come Kanye quando ha scritto through the wire. Mi sento come Denzel quando ha fatto Man on Fire. È come se mi tengono ma io voglio combatti. Altri come Johnny Cash lontano da Jim Carter. Come Kurt Cobain quando mette il colpo in canna. Come George Young quando becca la condanna. Poche parole bastano per dirti come sto. Un leone capo bianco catturato in uno zoo. C'ho la voglia di fuggire, di mangiarmi queste sbarre. Ma so che appena corro via mi sparano alle spalle. Mi sento come un crocaiero quando ha la dogana. Un feliero in mezzo al mare quando soffia tramontana. Uno straniero solo su una città lontana. Mi sento come Method Man senza marijuana. Mi sento come il figlio Drac arriva in città. I fratelli sotto al palco fanno un coro che fa. We'll be right back. 12:45, allora fino all'ultimo minuto parole ribelli, ma vi salutiamo che Gianluca qui preme per il GR. Vi diamo come sempre appuntamento a martedì prossimo dalle 10:45 alle 12:45. Un saluto e buon ascolto sulle libere frequenze di Blackout da Francesca. E un buon ascolto e un saluto a tutti e tutte anche da Eddie. Godetevi questo bel sole, ma soprattutto la suave voce di Gianluca.